Storiacce di Raffaella Calandra. La licenza per tiro sportivo e per caccia vale 6 anni e permette di detenere 3 armi comuni, 6 armi di tiro sportivo e un numero illimitato di armi da caccia. Dall'inizio dell'anno abbiamo 15 casi di persone uccise da altre persone che detenevano l'arma. Un giovane universitario è andato a richiedere appunto una licenza di tiro sportivo, il giorno dopo che ha ottenuto questa licenza ha comprato una pistola e il giorno successivo ha sparato all'ex fidanzata. Può succedere anche questo, quando hai la paura ad armare le case degli italiani, che all'improvviso sono diventati tutti cacciatori e appassionati di tiro a volo, strada più breve e semplice per avere il porto d'armi. Sono i numeri del Viminale a dirlo, mentre il paese si interroga sulla difesa di chi spara al ladro e casomai, come è stato per l'oste di Casaletto Lodigiano, finisce pure per ammazzarlo. Ma la difesa è sempre legittima, come qualche forza politica vorrebbe, o si rischia il Far West? Voi cosa ne pensate? All'osteria dei Amis, nelle campagne tra Pavia, Lodi e Milano, tutti hanno le idee molto chiare e allora da qui parte questa puntata di Storiacce. A lui va a caccia e io sono un suo alleato. Cioè, so quello che è successo, però a casa mia non ci vieni. No, se stava a caccia solo non moriva, scusa. Scusami. Dopo uno è armato come Mario, poi succedono ste cose. Lei cosa ha il fucile per andare a caccia? Sì, sì, no, ne ho 3 io. All'osteria degli Amici, ora gli amici arrivano da tutte le parti d'Italia, ora che sentono il bisogno di dire a tutti io sto con Mario. Mario, che davanti ai ladri ha preso il fucile e alla fine ha ucciso nella notte solitaria di Casaletto Lodigiano. La cosa bella è quella, che c'è tanta solidarietà in questo senso. Non so se hai visto la parete delle lettere. Perché che avete ricevuto da tutte le parti, vero? Da tutte le parti, sì, c'è Trieste, c'è Roma. Verona? Verona, l'Expo a Milano, Sasso Marconi. Qualcuno, il ristoratore, ci hanno chiamato, ci sono venuti a trovare. Si riconosce la mano incerta di anziani nella grafia di lettere e cartoline ora appese accanto alla macchinetta del caffè e al grembiule con l'hashtag creato dal figlio di Mario Cattaneo, insieme a tutta la famiglia precisa. La famiglia cioè dell'osteria, fatta di abitué del caffè corretto, vecchi contadini impegnati in un appassionante ramino e ciclisti della domenica. E proprio come in una famiglia ora stanno tutti incondizionatamente col Mario, perché sarebbe potuto succedere a chi? Chiunque, ripetono, snocciolando furti subiti o mancati. Io ammazzo e dico che ho ammazzato. Chiuso. Io lo faccio e dico che sono io, non che ho sbagliato, che sono io. Garantito. C'ho 76 anni, ma va bene così, mi metteranno dentro. Caffè. Ciao Mario. 5 euro, me li dai se lo porto via. È scioccante per tutti, perché sono cose che non è che si vive tutti i giorni questo. Questa vicenda qui ha lasciato anche negli abitanti un po' un senso di insicurezza. Sicuramente. È successo a me non tanto tempo fa. Sono venuti a rubare a casa sua, hanno provato. Hanno provato. Io le donne ogni mattina le raccomando, se andate a stendere, chiudete la porta. Può vivere così? Sono andati da una signora, gli hanno puntato il coltello e l'hanno fatta entrare in casa. Era una donna di servizio che stava stendendo. Di giorno? Alle 10:30 del mattino. Non so io. È la chiave di una porta blindata che divide reparto notte e reparto giorno di casa mia. Ma è possibile? No? Io vengo via di casa al mattino o qualsiasi cosa, mi chiudo reparto notte per dare un ostacolo in più se entrano in casa. Ma è vita questa? Niente. Seduti al bancone dell'osteria si paragona a San Pietro il signor Davide, 87 anni, un passato da gioielliere e ora un enorme mazzo di chiavi in risposta al senso di insicurezza che in queste campagne tra Lodi, Pavia e Milano tutti sembrano condividere, come le immagini dei videocitofoni inviati su WhatsApp perché mostrano una stessa auto ripresa in almeno 2 diversi tentativi di furti. E allora c'è chi acquista armi, chi si blinda in casa e chi si arma o vede con luce diversa quei fucili fino ad ora imbracciati soltanto per la caccia al cinghiale. È il Ministero dell'Interno a raccontare le paure degli italiani. Anche se reati e rapine sono infatti in calo, crescono invece le richieste di porto d'armi. Moltissime vengono anche rifiutate, come ha raccontato il questore di Milano, dove da 271 sono diventati 606 gli improvvisi amanti di caccia e tiro al volo, o meglio, aspiranti tale. Complessivamente in Italia sono 1.063.537 quelli che legittimamente hanno almeno una pistola o un fucile. Il boom si è registrato soprattutto in provincia nel 2015, quando anche per una norma più stringente in tanti hanno denunciato il possesso di un'arma. Poi c'è stata una leggera flessione, ma poiché non è così semplice ottenere una licenza per difesa personale concessa a 18.077 italiani, l'escamotage allora è il porto d'armi per uso venatorio o sportivo. È necessario però rendere più stringenti le norme e aumentare i controlli, è la richiesta dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, che ha calcolato già in 15, dice Giorgio Beretta, le persone uccise solo quest'anno da gente con regolare porto d'armi. Abbiamo poi invece un incremento, soprattutto, come lei diceva, delle autorizzazioni, delle licenze per porto d'armi, per il tiro sportivo e anche per la caccia. Perché avviene questo? Avviene perché di fatto la licenza per tiro sportivo e per caccia è una licenza che viene concessa dal questore, tutto sommato abbastanza facilmente. Occorre dimostrare di avere una idoneità psicofisica e occorre avere un certificato da parte di un poligono di tiro di essere in grado appunto di maneggiare un'arma. A fronte di questo però la licenza vale 6 anni e permette di detenere 3 armi comuni, 6 armi di tiro sportivo e un numero illimitato di armi da caccia, tra cui 1.000 munizioni. Chi volesse avere in casa un'arma alla fine usa più facilmente questa scorciatoia di diventare ad un certo punto appassionato di tiro a segno per sport, oppure di diventare cacciatore per avere più facilmente la licenza per il porto d'arme. E questo purtroppo è quello che si sta vedendo, anche perché non esiste una licenza di porto d'armi appunto per difesa, per semplice difesa abitativa o per la difesa dell'esercizio commerciale. E esiste quindi, quello per la difesa personale, giusto? Per la difesa personale, esattamente, no? Si usano quindi queste licenze. Succede che quello che abbiamo visto già a partire da quest'anno, perché dall'inizio dell'anno abbiamo 15 casi di persone uccise da altre persone che detenevano l'arma, noi crediamo che occorra, se è necessario, modificare la legge appunto sulla legittima difesa in modo da garantire che chi viene aggredito non sia poi processato, quindi dare maggiore garanzia appunto alla persona aggredita, ma a fronte di questo contestualmente occorrerebbe rivedere le licenze appunto di porto d'armi, la normativa sul porto d'armi. Anche la vicenda di Vasto ad esempio è un caso analogo. Esattamente, e questo a nostro parere è penalizzante anche appunto per le persone che vogliono invece praticare questi sport nella maniera legittima, no? E perché ovviamente una persona, cioè casi di questo genere finiscono anche per porre grossi dubbi, no? Su quello che oggi significa questo tipo di licenze. Col fucile da caccia, appunto, ha sparato anche Mario Cattaneo, che sentiremo tra poco, l'oste di Casaletto Lodigiano, che ha finito per uccidere Petru Ungureanu, il romeno 28enne che nella notte dell'11 marzo ha provato a rubare nell'osteria. In 4, o forse in 7, secondo rumors, erano arrivati quella notte, ma durante la colluttazione è partito un colpo, ha raccontato Mario agli inquirenti che indagano sul caso, ma la sua versione sembra avere ancora dei punti oscuri. Qui però, tra i tavolini della sua osteria, il tema per tutti è molto chiaro: chi ruba deve restare e restare a lungo in carcere, e chi si difende invece non deve affrontare indagini. È qui il nocciolo della questione? La difesa può essere davvero sempre legittima? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce, anche con l'oste di Casaletto Lodigiano. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta

capito? C'è un colpevole, c'è questo è venuto a rubare, è venuto a casa mia, questo si è difeso, ha protetto la sua famiglia, la sua casa, e non c'è troppo da andare avanti. È inutile torturare e far soffrire della gente per cosa? La legge già tutela chi si difende in casa propria, ma stabilisce pure che la risposta deve essere necessaria e proporzionata e non si può allora sparare al ladro in fuga, altrimenti diventa il Far West, obietta la presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, elencando le iniziative previste per andare in soccorso della vittima, a cominciare dall'assistenza legale. Certamente noi sappiamo che alcune volte è troppo lenta, i problemi ci sono, dal punto di vista anche del legislatore ce lo siamo posto, tant'è vero che stiamo cercando di chiudere alcune riforme sui tempi della giustizia penale, abbiamo varato sempre in quel progetto anche delle leggi, degli aumenti di pena per chi ruba nelle case, chi fa delle rapine, quindi anche per tutta questa violenza o questa aggressione sia fisica che patrimoniale. Questi fenomeni della giustizia fai da te non vanno assolutamente incentivati mai. Lei citava appunto la stretta delle pene per quanto riguarda le aggressioni o i tentativi di rapina e di furto in casa, e questo è un tema molto specifico che ha alimentato tutto il dibattito della giustizia fai da te, perché appunto è aumentato anche il numero di persone che si sentono più sicure avendo un'arma in casa che poi utilizzano. Bisogna anche pensare a un'attività forse anche di sostegno delle vittime e psicologico oltre che economico. Noi questa sulla la tutela della vittima abbiamo dedicato l'attuazione proprio di una direttiva, quindi abbiamo creato una serie di norme che vanno dall'informazione al sostegno, al gratuito patrocinio, però ecco, tutto questo deve passare anche attraverso un fenomeno culturale. Quindi io capisco, io non è che mi tiro indietro rispetto a un dolore della vittima o la paura di chi viene aggredito, però abbiamo visto che l'altro giorno un padre è stato ucciso dal figlio sedicenne, mi pare, che aveva un'arma in casa. Quindi attenzione poi, perché armando le case poi quelle stesse armi possono essere usate anche per esempio atti violenti domestici. La fiducia nella giustizia e nelle pene per chi viola le case è sentita però come qualcosa di distante tra queste campagne dell'Odigiano, dove tutti invece sembrano avere furti da raccontare. Il discorso della certezza della pena va affrontato, perché non si può andare avanti così. No, non si può. Ma non è una questione di cattiverie di destra o di sinistra, è una questione di fatti. Cioè basta, le forze dell'ordine non ci sono più, quelle che ci sono fanno quello che possono fare. Cosa dobbiamo fare? Tutto parla del furto di questo qui, eccetera, eccetera, o del fucile. Ma perché non parliamo di quello che gli altri lasciano sulla strada? Una persona che viene qui, io, te e lui andiamo a fare una rapina. Uno dei tre prende un colpo. Tu lo abbandoni senza i documenti, ma sei un animale o sei una persona? Cosa vogliamo difendere, una persona con due bambini di sopra, gemelli e uno di 4 anni? L'avrei fatto anch'io, ma non è una questione di fare il grande, è una questione che sei abbandonato. Passate di qua alle 3 di notte, da soli, passate, e poi dite dov'è lo Stato, che non ce l'ho con le forze dell'ordine, ma con il sistema Stato. E allora capita che tra i tavoli dell'osteria, più che dell'ultima partita, ora si discuta dei confini della legittima difesa. E d'altra parte questo è un problema da sempre, fin dall'epoca classica, come ci racconta, come sempre a questo punto, Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Il diritto degli antichi si occupava ampiamente del problema della legittima difesa nella teoria e nei fatti. I romani si ingegnavano a distinguere se, quando e come fosse lecito uccidere il ladro che entrava in casa tua, a seconda che ci entrasse di giorno, fur diurnus, o di notte, fur nocturnus. Platone, progettando il suo stato ideale, prevedeva anche il caso della legittima difesa e scriveva: se un tale di notte scopre ed uccide un ladro che si è introdotto in casa sua per rubare dei soldi, sia immune da colpa. Ad Atene la legittima difesa si ampliava fino a comprendere la punizione dell'adultero entrava in casa tua per rubarti, diciamo così, la moglie. Se lo coglievi sul fatto, a letto, con la tua consorte, potevi ucciderlo. Ma potevi anche rischiare di finire comunque sotto processo. Come accadde a quel tale che fu trascinato in tribunale dai parenti dell'adultero ucciso, i quali sostenevano che aveva indotto con l'inganno il loro congiunto a entrare in casa sua per poterlo eliminare. La storia, con tutti i dettagli processuali, si trova nell'orazione giudiziaria per l'uccisione di Eratostene, scritta dal grande Lisia alla fine del V secolo a.C. Problema di sempre, insomma, ma sentite quest'altra osservazione. Un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito se sproporzionato al fine. Se quindi uno, nel difendere la propria vita, usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito. Questa non è saggezza antica, è San Tommaso, voce della sapienza cristiana. Ma secondo voi, chi spara ad un ladro non deve mai subire un processo? O c'è davvero il rischio di una giustizia fai da te? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Se avete storie o testimonianze da condividere, scriveteci a storiacce@radio24.it. Le pubblicheremo nella pagina delle vostre storiacce. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.